Savonarola, il frate che fece Abiura a Firenze, o almeno così dicevano i suoi aguzzini. Stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che ai suoi tempi consumava mediamente all'anno circa 100 litri di vino, e lette oggi da me, che consumo mediamente all'anno circa 104. Litri di vino. Quindi a quantità siamo più o meno lì. Il fatto è che ai tempi di Villari si beveva tanto vino perché era fonte primaria di calorie e perché l'acqua non sempre era potabile, mentre ai tempi miei si beve tanto vino perché siamo dei briachi. E c'è dell'altro. Il vino di Villari era succo d'uva fermentato e nient'altro, e quindi ne serviva parecchio per prendersi una sbronza, mentre il vino dei nostri giorni è un complesso prodotto bio chimico enologico e bastano pochi bicchieri per prenderla bella, a conferma che siamo dei briachi. D'altra parte dice il proverbio che amicizia di grand'uomo e vino di fiasco, la mattina è buono e la sera è guasto, e comunque femmine, vino e cavallo son mercanzie di fallo. Serio, capitolo 9, Ricky e Barabba. La signoria non poteva essere meno scontenta del come procedeva l'esamina degli altri due frati. Domenico da Pescia, sotto la tortura, era divenuto maggiore di se stesso. Cercarono fargli credere che il Savonarola avesse ritrattato ogni cosa, lo sottoposero alla fune e al tormento assai più crudele della stanghetta, ma tutto ciò era vano, perché egli rimaneva incrollabile e sereno come un martire della chiesa primitiva. Pensarono allora a fare della necessità virtù, gli lasciarono scrivere di sua mano la propria confessione, disposti a pubblicarla senza alterazioni per guadagnarsi nome di giudici onesti ed acquistar fede al falso processo del Savonarola. Ma l'animo non bastò loro a ciò. Quando lessero la confessione di Fra Domenico non poterono restarsi dal farvi alcuni mutamenti, coi quali, sebbene non l'avessero essenzialmente alterata, pure la scolorivano e le toglievano quell'impronta d'eroismo che traspariva in essa da ogni parola. Vi aggiunsero di loro invenzione i nomi degli amici del convento che Fra Domenico non volle dare, ma poi non seppero risolversi a pubblicarla e la fecero solamente girare manoscritta. Ponendo a confronto le due copie di questo processo, si trova che in quello ritoccato dalla signoria v'è più ordine, più grammatica e correzione, cose tutte che mancano nel vero e genuino, il quale ha invece quella schietta e naturale eloquenza che non viene dall'arte, ma sorge spontanea dal cuore d'un uomo generoso. Non si può leggerlo senza una profonda commozione, esso ci trasporta quasi accanto alla tortura. Noi vediamo lo strazio crudele delle membra, udiamo lo scricchiolare delle ossa, ascoltiamo la voce fioca ed esausta, ma pure sublime dell'eroico frate che si avvicina alla morte con l'angelico sorriso dei martiri e nel dolore si esalta sempre più a lodare il nome del suo Signore. Il processo incominciava con queste parole. Iddio e Signore nostro Gesù Cristo sa che io, Fra Domenico, per esso legato, non mento in alcuna di queste cose. Affermava che egli e il Savonarola erano stati sempre contrari a qualunque apparecchio d'armi, a qualunque resistenza nel convento, ma venendo all'esperimento del fuoco diceva invece: io andai deliberatissimo d'entrarvi, né pensai che s'avesse a fare l'obiezione del sacramento. Se adunque è nato scandalo, iddio, per la volontà del quale lo feci l'esperimento, me ne darà premio, perché ho assai meritato in questa infamia e persecuzione sì grande. E quel primo giorno concludeva dicendo ai signori: non vogliono appuntar sofisticamente le mie parole, ma le facciano piuttosto servire alla intenzione con cui sono scritte. Il 16 aprile, dopo aver gli esaminatori con ogni astuzia e crudeltà cercato persuadergli che il Savonarola s'era ritrattato, lo invitarono a scrivere cosa pensasse di lui, ed egli subito: io, per una certa impressione nella mia mente, ho fermamente sempre creduto, e non mi essendo mostro meglio il contrario, credo a tutte le profezie del Savonarola. E dopo averle enumerate continuava: io ho tenacemente affissa questa fede, né perciò debbono le magnificenze vostre alterarsi, perché questo mio credere non nuoce punto né a me né alla città, ed in queste cose ciascuno è libero a credere quel che i vuole. Aggiunse che il Savonarola non gli suggeriva mai ciò che dovesse predicare, ma lo lasciava ispirare da Dio, e poi concludeva così: Non ho altro a mente. Se da me voi altro desiderate, come buoni confessori, domandatemi e io mi ingegnerò a soddisfarvi. Ma credetemi ogni cosa, perché veramente potete. Con ciò sia che, avendo sempre avuta coscienza tenera, so molto bene che dire le bugie in giudicio o tacere quello che si debbe manifestare è peccato. Sommi ingegnato di andar tanto appunto quanto se io avessi ora a morire, il che mi potrebbe facilmente intervenire se mi tormentate, perché sono tutto fracassato e ho guaste le braccia, massime il sinistro, il quale con questa già due volte ho guasto. Onde vi prego siate clementi, credendo alla verità delle mie semplici scritture. I giudici insistevano più fieramente, e fra Domenico rispondeva: io non so altro, perché mi sono occupato solo del ben vivere e di Gesù Cristo re di Firenze. Così questa seconda fune, seppure non mi credendo mi darete, non troverete altro né c'è, e metteretemi a pericolo della vita. Ma ciò non valse a nulla, fra Domenico fu rimesso di nuovo e più crudelmente alla tortura. Poi gli presentarono da capo la penna ed egli, con mano tremante ed esausta ma sempre sicura, scrisse le ultime e più memorabili parole della sua confessione. Sia fatta la volontà di Dio. Non mi potetti mai avvedere, né mai ebbi uno minimo sospetto che il padre fra Ieronimo ingannassi o andassi punto fintamente. Anzi, mi pareva rettissimo e sempre l'ho giudicato uomo singolare. Ed avendogli gran reverenza, speravo che per i suoi mezzi avere da Dio grazia di poter fare qualche bene alle anime. E, reputandolo uomo di Dio, come suo suddito l'obbedivo con ogni semplicità e sollecitudine. Qualche volta ho detto a frati in pulpito e a qualcuno laico che se io in fra Ieronimo conoscessi un minimo errore o inganno, io lo avrei scoperto e pubblicato. E certo lui ha testificato qualche volta che io lo avrei fatto, e ora lo farei se nulla di lui sapessi di duplicità. Assai diversamente procedette la cosa con frate Silvestro, nervoso e malato, soggetto alle visioni di uno strano sonnambulismo che egli credeva ispirazione, di carattere assai debole, disposto a credere e discredere con la stessa facilità, si trovava di continuo a passeggiare per i chiostri, discorrendo in mezzo ad un crocchio di cittadini. Più volte ne aveva ricevuto rimprovero dal Savonarola, ma v'erano sempre molti che lo cercavano ed egli ricadeva nello stesso errore. Sia la difficoltà di parlare col Savonarola, di cui fra Silvestro godeva piena fiducia, sia la fama delle sue visioni, che a molti era nota, sia un certo entusiasmo religioso che egli manifestava nel discorrere, certo è che uomini come Francesco Valori e Piero Capponi lo avevano per confessore ed erano con lui in continua corrispondenza di lettere. Quando però venne l'ora del pericolo, egli fece pessima prova. Il giorno del tumulto lo abbiamo veduto nascondersi nel convento, né uscirne se non quando fu rivelato ai birri da fra Malatesta. Messo all'esame il giorno 25 d'aprile, non ebbe altro pensiero che quello di salvarsi la vita a spese della innocenza del maestro e della sua propria dignità. Ancora in questo processo la mano di Ser Ceccone fece parecchie alterazioni, ma la sostanza e il carattere generale che vi restarono assai visibili sono tali che neppure gli amici più devoti di fra Salvestro poterono difenderlo. È singolare però che, contro la sua stessa intenzione, gli fornisce nuovi e validi argomenti a dimostrare l'innocenza del Savonarola. Dette lunghissime liste dei nomi di coloro che frequentavano il convento, rinnegò la dottrina e cercò in ogni modo denigrare la vita del suo maestro. Pure confessò che il Savonarola non s'era lasciato mai dominare dalle mene di partito, né aveva tenuto in San Marco intelligenze di Stato. Sopra le opinioni mie dei fatti di fra Girolamo, così concludeva, dico essere occorso che almeno 20 o 28 volte, quando lui aveva a predicare, poco innanzi alla predica, veniva a me e dicevami: io non ho che predicare, pregate Iddio per me, che dubito Dio mi abbia abbandonato per qualche mio peccato. E diceva di volersi confessare, e così si confessava, e niente di meno, faceva poi di belle prediche. E l'ultima volta che fece questo atto fu il sabato, quando di poi lasciò le prediche, la domenica in San Marco questa quaresima. Finalmente dico che ci ha ingannato. L'ultima frase è certo aggiunta dalla mano di Ser Ceccone, ma che altro provano tutte queste parole se non la pienissima fede che il Savonarola aveva nella sincerità e bontà di quel discepolo che ora così bassamente lo tradiva e quantunque invano oppure si sforzava di denigrarlo. In questo mezzo venne a termine ancora un altro processo contro parecchi frati di San Marco e non pochi cittadini dei più intimi del Savonarola che s'erano trovati nel convento il giorno del tumulto. Vennero minutamente interrogati sulle intelligenze tenute in San Marco, sulle armi introdotte e via discorrendo. Si conobbero così nuovi particolari di quei fatti, ma nulla, assolutamente nulla, che risultasse a danno del Savonarola, la cui innocenza risplendeva invece sempre più luminosa. Tutti affermavano che gli era un uomo dedito assolutamente alla contemplazione delle cose celesti, che mai non s'era occupato nei maneggi di Stato. Tale, essi dicevano, era il rispetto, la venerazione, avevano per lui che nessuno si faceva ardito di entrare nella sua cella per non distrarlo dalla meditazione in cui era continuamente assorto. Quando però si mostrava agli accusati il falso processo, quando si cercava di persuadere loro che il Savonarola aveva rinnegato la sua profezia e le sue visioni, allora non tutti restavano fermi nella fede. I frati in specie trascorsero assai facilmente a parole piene di ira e di sdegno. Fra Roberto da Gagliano, sebbene fosse stato dei più affezionati al Savonarola e ai suoi due compagni, supplicava adesso i signori perché in nessun modo fossero rimandati al convento. Ma in tanta ira e in tanto sdegno egli non poteva nascondere la stima e venerazione avuta per il Savonarola, in modo che la sua accusa riesce invece una difesa. Egli dice: «Io sapevo per certa scienza e come teologo la sua dottrina essere sana e non eretica. Io non potetti mai notare fra Girolamo di nulla, ma sempre vidi in lui gran segno di santità, devozione, umiltà, orazione, buone parole, ottimi costumi ed esempi, conversazioni mirabili e dottrina sana e ferma e solida. Ma poiché si sottilmente ci ha simulato e ingannato, ringrazio Dio e la Signoria che ci ha chiariti e preghiamo che vogliate mantenere il bene incominciato insino al fine». Invero i frati di San Marco fecero in questa occasione assai mala prova. Bisogna però considerare che la loro condizione era assai difficile e che la loro fede fu messa a duro cimento. Sventuratamente per molti di loro la dottrina che professavano consisteva principalmente nelle visioni e le profezie. Essi avevano ciecamente desiderato, aspettato, anzi voluto il miracolo e quando videro ogni cosa sparire restarono come uomini perduti. Noi dobbiamo credere che questa prova fu dura e difficile davvero quando vediamo che anche Fra Benedetto, il fido amico, l'eroico seguace, l'instancabile difensore del Savonarola si lasciò in quei giorni vincere dal dubbio e per servirci d'una sua espressione, come tordo, avuta la ramata, se ne andò a Viterbo. Ben presto però in lui la calma diè luogo alla ragione, è venuto di nuovo a Firenze, esaminati minutamente i fatti, ricercati e trovati i veri documenti, i sinceri testimoni, tornò più forte che mai nell'antica fede in cui persistette sino alla morte. Ma non era in tutti la generosa costanza di Fra Benedetto e già il 21 aprile i frati di San Marco avevano indirizzata al Borgia una lettera che è macchia incancellabile sulla loro fama. Si gettavano ai piedi del Santo Padre e cercavano rovesciare tutta la colpa del loro operato addosso al Savonarola. Sembrava però inevitabile che tutti gli accusatori ne facessero la difesa. Anche questa lettera è per lui un elogio. E si dicevano: «Non solamente noi, ma uomini d'assai maggiore ingegno furono ingannati dall'astuzia di Fra Girolamo. L'acume della sua dottrina, la rettitudine del vivere, la santità dei costumi, la simulata devozione, il profitto che attenne col dissipare dalla città il malcostume, le usure ed ogni sorta di vizio, i molti eventi che al di sopra d'ogni forza ed ogni immaginazione umana confermarono le sue profezie furono tali e tanti che, se non si fosse egli medesimo ritrattato, dicendo che le sue parole non erano da Dio, noi giammai non avremmo potuto negargli fede. E tanto in lui credevamo che tutti fummo prontissimi ad esporre a roghi i nostri corpi per sostenere la sua dottrina. Chiedevano quindi assoluzione dalla scomunica in corsa per essere stati suoi seguaci e per avere alcuni di essi brandito le armi nel giorno del tumulto. Singolare è poi che nel procedere oltre i frati supplicavano il Santo Padre perché volesse mantenere intatta la loro separazione dai frati lombardi. Era quella medesima separazione per cui il Savonarola aveva tanto combattuto e su cui il Papa aveva motivato la scomunica contro di lui e del convento. E i suoi frati ora supplicavano per essa, adducevano le stesse ragioni addotte da lui in quella lettera che fece prorompere così fieramente l'ira papale. E dopo ciò concludevano: «Basti a vostra santità avere il fomo e capo d'ogni errore, frate Girolamo Savonarola, sopporti esso pena condegna, seppur se ne trova di tanta scelleraggine, noi smarrite pecorelle torniamo al vero pastore». Due frati portavano a Roma questa lettera e venivano caldamente raccomandati dalla signoria. Il Papa vi rispondeva in data del 14 maggio e, lodando il pentimento, dava assoluzione e prometteva di prendere in maturo esame quella separazione che già tante volte era stata a vicenda condannata e concessa. La signoria ricevette un breve elogio e congratulazione in data del 17 aprile. All'arcivescovo il capitolo del Duomo venne con altro breve concessa facoltà di assolvere qualunque delitto commesso a procurare la rovina del Savonarola, fosse pure l'omicidio, e moltissimi vi accorsero.